Giornata seconda, parte quattordicesima di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Giornata seconda, parte quattordicesima. Salviati. Come? In che modo? La conclusione ignota che voi volete provare non è che la curva ACB sia più lunga della retta AB? Il mezzo termine che si piglia per noto non è che la curva ACB sia maggior delle due ACCB, le quali è noto essere maggiori dell'AB? E se vi è ignoto che la curva sia maggiore della sola retta AB, come non sarà egli assai più ignoto che ella sia maggiore delle due rette ACCB, che si sa essere maggiori della sola AB? E voi lo prendete per noto? Simplicio, io non intendo ancor bene dove consista la fallacia. Salviati, come le due rette sien maggiori della AB, siccome è noto per Euclide, tutta volta che la curva sia maggiore delle due rette ACCB, non sarà ella molto maggiore della sola retta AB? Simplicio, signor sì. Salviati, esser maggiore la curva ACB della retta AB è la conclusione più nota del mezzo termine, che è l'essere la medesima curva maggior delle due rette ACCB. Ora, quando il mezzo è manco noto della conclusione, si domanda provare ignotum per ignotius. Ora, torniamo al nostro proposito. Basta che voi intendete la retta esser la brevissima di tutte le linee che si possono tirare fra due punti. E quanto alla principal conclusione, voi dite che la sfera materiale non tocca il piano in un sol punto. Qual è dunque il suo contatto? Simplicio, sarà una parte della sua superficie. Salviati, e il contatto, parimente, d'un'altra sfera eguale alla prima sarà pure una simil particella della sua superficie. Simplicio, non c'è ragione che non debba essere così. Salviati, adunque, ancor le due sfere, toccandosi, si toccheranno con le due medesime particelle di superficie, perché, adattandosi ciascheduna di esse allo stesso piano, è forza che si adattino ancor fra di loro. Immaginatevi, ora, le due sfere, figura 6, i cui centri siano AB, che si tocchino, e congiungansi i loro centri con la retta linea AB, la quale passerà per il toccamento. Passi per il punto C e, preso nel toccamento un altro punto D, congiungansi le due rette ADBD, sì che si costituisca il triangolo ADB, del quale i due lati ADDB saranno uguali all'altro solo ACB, contenendo tanto quelli quanto questi due semidiametri che, per la definizione della sfera, sono tutti uguali. E così la retta AB tirata tra i due centri AB non sarà la brevissima di tutte, essendoci le due ADDB uguali a lei, il che per le vostre concessioni è assurdo. Simplicio, questa dimostrazione conclude delle sfere in astratto e non delle materiali. Salviati, assegnatemi dunque in che cosa consiste la fallacia del mio argomento, giacché non conclude nelle sfere materiali, ma sì bene nelle immateriali e astratte. Simplicio. Le sfere materiali sono soggette a molti accidenti, ai quali non soggiacciono le immateriali, e perché non può essere che, posandosi una sfera di metallo sopra un piano, il proprio peso non calchi in modo che il piano ceda qualche poco, ovvero che l'istessa sfera nel contatto si ammacchi? Inoltre, quel piano difficilmente potrà essere perfetto, quando non per altro, almeno per essere la materia porosa. E forse non sarà men difficile il trovare una sfera così perfetta che abbia tutte le linee dal centro alla superficie egualissime per l'appunto. Salviati. Oh, tutte queste cose ve le concedo io facilmente, ma elle sono assai fuori di proposito, perché mentre voi volete mostrarmi che una sfera materiale non tocca un piano materiale in un punto, voi vi servite d'una sfera che non è sfera e d'un piano che non è piano, poiché per vostro detto o queste cose non si trovano al mondo o, se si trovano, si guastano nell'applicarsi a far l'effetto. Era dunque manco male che voi concedeste la conclusione, ma condizionatamente, cioè che se si desse in materia una sfera e un piano che fussero e si conservassero perfetti, si toccherebbero in un sol punto, e negaste poi ciò potersi dare. Simplicio, io credo che la proposizione dei filosofi vadia intesa in cotesto senso, perché non è dubbio che l'imperfezione della materia fa che le cose prese in concreto non rispondono alle considerate in astratto. Salviati. Come non si rispondono? Anzi, quel che voi stesso dite al presente prova che elle rispondono puntualmente. Simplicio. In che modo? Salviati. Non dite voi che per l'imperfezione della materia quel corpo che dovrebbe essere perfetto sferico e quel piano che dovrebbe essere perfetto piano non riescono poi tali in concreto quali altri se li immagina in astratto? Simplicio. Così dico. Salviati. Adunque, tutta volta che in concreto voi applicate una sfera materiale a un piano materiale, voi applicate una sfera non perfetta a un piano non perfetto, e questi dite che non si toccano in un punto. Ma io vi dico che anche in astratto una sfera immateriale che non sia sfera perfetta può toccare un piano immateriale che non sia piano perfetto non in un punto, ma con parte della sua superficie. Talché, sin qui, quello che accade in concreto accade nello stesso modo in astratto. E sarebbe ben nuova cosa che i computi e le ragioni fatte in numeri astratti non rispondessero poi alle monete d'oro e d'argento e alle mercanzie in concreto. Ma sapete, signor Simplicio, quel che accade? Siccome a voler che i calcoli tornino sopra i zuccheri, le sete e le lane, bisogna che il computista faccia le sue tare di casse, invoglie ed altre bagaglie, così quando il filosofo geometra vuol riconoscere in concreto gli effetti dimostrati in astratto, bisogna che difalchi gli impedimenti della materia, che se ciò saprà fare, io vi assicuro che le cose si riscontreranno non meno aggiustatamente che i computi aritmetici. Gli errori, dunque, non consistono né nell'astratto, né nel concreto, né nella geometria o nella fisica, ma nel calcolatore che non sa fare i conti giusti. Però, quando voi aveste una sfera ed un piano perfetti, benché materiali, non abbiate dubbio che si toccherebbero in un punto. E se questo era ed è impossibile ad aversi, molto fuori di proposito fu il dire che sfera enea non tangit in puncto. Ma più vi aggiungo, signor Simplicio, concedutovi che non si possa dare in materia una figura sferica perfetta né un piano perfetto, credete voi che si possano dare due corpi materiali di superficie in qualche parte e in qualche modo incurvata anco quanto si voglia irregolatamente? Simplicio. Di questi non credo che ce ne manchino. Salviati. Come ve ne siano di tali, questi ancora si toccheranno in un punto, che il toccarsi in un sol punto non è mica privilegio particolare del perfetto sferico e del perfetto piano. Anzi, chi più sottilmente andasse contemplando questo negozio, troverebbe che più difficile assai è il trovare due corpi che si tocchino con parte delle loro superficie che con un punto solo. Perché, a voler che due superfici combacino bene insieme, bisogna o che amendue siano esattamente piane, o che se una è colma, l'altra sia concava, ma di una incavatura che per appunto risponda al colmo dell'altra, le quali condizioni sono molto più difficili a trovarsi per la loro troppo stretta determinazione che le altre che nella casual larghezza sono infinite. Simplicio. Adunque, voi credete che due pietre o due ferri presi a caso e accostati insieme il più delle volte si tocchino in un sol punto? Salviati. Negli incontri casuali credo di no. Sì, perché per lo più sopra essi sarà qualche poco d'immondizia cedente. Sì, perché non si usa diligenza in applicarli insieme senza qualche percossa. Ed ogni poca basta a far che l'una superficie ceda qualche poco all'altra. Sì, che scambievolmente si figurino, almeno in qualche minima particella, l'una all'impronta dell'altra. Ma quando le superfici loro fossero ben terse e che posate amendue sopra una tavola, acciò che l'uno non gravasse sopra all'altro, si spingessero pian piano l'uno verso l'altro, io non ho dubbio che potrebbero condursi al semplice contatto in un sol punto. Sagredo. Egli è forza che, con vostra licenza, io proponga certa mia difficoltà, natami nel sentir proporre al signor Simplicio la impossibilità che è nel potersi trovare un corpo materiale e solido che abbia perfettamente la figura sferica, e nel veder il signor Salviati prestargli, in certo modo, non contraddicendo, l'assenso. Però vorrei sapere se la medesima difficoltà si trovi nel figurare un solido di qualche altra figura, cioè, per dichiararmi meglio, se maggior difficoltà si trova in voler ridurre un pezzo di marmo in figura d'una sfera perfetta che d'una perfetta piramide o d'un perfetto cavallo o d'una perfetta locusta. Salviati, per questa prima risposta la darò io e prima mi scuserò dell'assenso che vi pare che io abbia prestato al signor Simplicio, il quale era solamente per a tempo, perché io ancora avevo in animo, avanti che entrare in altra materia, dir quello che per avventura sarà lo stesso o assai conforme al vostro pensiero. E, rispondendo alla vostra prima interrogazione, dico che se figura alcuna si può dare a un solido, la sferica è la facilissima sopra tutte l'altre, siccome è anco la semplicissima, e tiene tra le figure solide quel luogo che il cerchio tiene tra le superficiali. La descrizione del qual cerchio, come più facile di tutte le altre, essa sola è stata giudicata dai matematici degna d'esser posta tra i postulati attenenti alle descrizioni di tutte le altre figure. Ed è talmente facile la formazione della sfera che se in una piastra piana di metallo duro si caverà un vacuo circolare, dentro al quale si vada rivolgendo casualmente qualsivoglia solido assai grossamente tondeggiato, per se stesso, senz'altro artificio, si ridurrà in figura sferica, quanto più sia possibile perfetta, purché quel tal solido non sia minore della sfera che passasse per quel cerchio. E quel che ci è anche di più degno di considerazione è che dentro a quel medesimo incavo si formeranno sfere di diverse grandezze. Quello poi che ci voglia per formare un cavallo o, come voi dite, una locusta, lo lascio giudicare a voi, che sapete che pochissimi scultori si troveranno al mondo atti a poterlo fare. E credo che il signor Simplicio, in questo particolare, non dissentirà da me. Simplicio: non so se io dissenta appunto da voi. L'opinion mia è che nessuna delle nominate figure si possa perfettamente ottenere. Ma per avvicinarsi quanto si possa al più perfetto grado, credo che incomparabilmente sia più agevole il ridurre il solido in figura sferica che in forma di cavallo o di locusta. Sagredo: e questa maggior difficoltà, da che credete voi che ella dipenda? Simplicio: siccome la grande agevolezza nel formare la sfera deriva dalla sua assoluta semplicità ed uniformità, così la somma irregolarità rende difficilissimo l'introdur l'altre figure. Sagredo: adunque, come l'irregolarità è causa di difficoltà, anco la figura di un sasso rotto con un martello a caso sarà delle difficili a introdursi, essendo essa ancora irregolare, forse più di quella del cavallo? Simplicio: così deve essere. Sagredo: ma ditemi, quella figura, qualunque ella si sia, che ha quel sasso, allegli perfettissimamente o pur no? Simplicio: quella che egli ha l'ha tanto perfettamente che nessun'altra le si assesta tanto puntualmente. Sagredo: adunque, se delle figure irregolari e perciò difficili a conseguirsi, pur se ne trovano infinite perfettissimamente ottenute, con qual ragione si potrà dire che la semplicissima e perciò facilissima più di tutte sia impossibile ritrovarsi? Salviati: signori, con vostra pace, mi par che noi siamo entrati in una disputa non molto più rilevante che quella della lana caprina, e dove che i nostri ragionamenti dovrebbero continuar di essere intorno a cose serie e rilevanti, noi consumiamo il tempo in altercazioni frivole e di nessun rilievo. Ricordiamoci, in grazia, che il cercare la costituzione del mondo è de maggiori e dei più nobili problemi che siano in natura, e tanto maggior poi quanto viene indrizzato allo scioglimento dell'altro, dico della causa del flusso e reflusso del mare, cercata da tutti i grand'uomini che sono stati sin qui, e forse da gnun ritrovata. Però, quando altro non ci resti da produrre per l'assoluto scioglimento dell'istanza presa dalla vertigine della terra, che fu l'ultima portata per argomento della sua immobilità circa al proprio centro, potremo passare allo scrutinio delle cose che sono in pro e contro al movimento annuo. Sagredo: non vorrei, signor Salviati, che voi misuraste gli ingegni di noi altri con la misura del vostro. Voi, avvezzo sempre ad occuparvi in contemplazioni altissime, stimate frivole e basse taluna di quelle che a noi paiono degno cibo dei nostri intelletti. Però, talvolta, per soddisfazione nostra, non vi sdegnate di abbassarvi a concedere qualcosa alla nostra curiosità. Quanto poi allo scioglimento dell'ultima istanza, presa dallo scagliamento della vertigine diurna, per soddisfare a me bastava assai meno di quello che si è prodotto. Tuttavia, le cose che si son dette soprabbondantemente mi son parse tanto curiose che non solo non mi hanno stancata la fantasia, ma me l'hanno con le loro novità trattenuta sempre con diletto tale che maggior non saprei desiderarne. Però, se qualche altra speculazione resta a voi da aggiungervi, producetela pure, ch'io, per la parte mia, molto volentieri la sentirò. Salviati. Io, nelle cose trovate da me, ho sempre sentito grandissimo diletto, e dopo questo, che è il massimo, provo gran piacere nel conferirle con qualche amico che le capisca e che mostri di gustarle. Or, poiché voi siete uno di questi, allentando un poco la briglia alla mia ambizione, che gode dentro di sé quando io mi mostro più perspicace di qualche altro reputato di acuta vista, produrrò, per colmo e buona misura della discussione passata, un'altra fallacia dei seguaci di Tolomeo ed Aristotele presa nel già prodotto argomento. Sagredo, ecco che io avidamente mi apparecchio a sentirla. Salviati, noi abbiamo sin qui trapassato e conceduto a Tolomeo come effetto indubitabile che, procedendo lo scagliamento del sasso dalla velocità della ruota mossa intorno al suo centro, tanto si accresca la causa di esso scagliamento quanto la velocità della vertigine si augmenta, dal che si inferiva che, essendo la velocità della terrestre vertigine sommamente maggiore di quella di qualsivoglia macchina che noi artificiosamente possiam far girare, l'estrusione, in conseguenza delle pietre e degli animali, eccetera, dovesse essere violentissima. Ora, io noto che in questo discorso è una grandissima fallacia, mentre noi indifferentemente ed assolutamente paragoniamo le velocità tra di loro. È vero che s'io fo comparazione delle velocità della medesima ruota o di due ruote uguali tra di loro, quella che più velocemente sarà girata con maggior impeto scaglierà le pietre e, crescendo la velocità, con la medesima proporzione crescerà anche la causa della proiezione. Ma quando la velocità si facesse maggiore, non con la crescere velocità nella stessa ruota, che sarebbe col fargli dar numero maggiore di conversioni in tempi uguali, ma col crescere il diametro e far la ruota maggiore, sì che ritenendo il medesimo tempo di una conversione tanto nella piccola quanto nella gran ruota, e solo nella grande la velocità fosse maggiore per essere la sua circonferenza maggiore, non sia chi creda che la causa dello scagliamento nella gran ruota crescesse secondo la proporzione della velocità della sua circonferenza verso la velocità della circonferenza della minor ruota, perché questo è falsissimo, come per adesso una speditissima esperienza ci potrà mostrare così alla grossa. Che tal pietra potremmo noi scagliare con una canna lunga un braccio, che con una lunga sei braccia non potremo, ancorché il moto dell'estremità della canna lunga, cioè della pietra incastratavi, fosse più veloce il doppio del moto della punta della canna più corta, che sarebbe quando le velocità fossero tali che nel tempo di una conversione intera della canna maggiore la minore ne facesse tre. Sagredo, questo, signor Salviati, che voi mi dite, già comprendo io dovere necessariamente succeder così, ma non mi sovvien già prontamente la causa, perché eguali velocità non abbiano a operare egualmente in estruder i proietti, ma assai più quella della ruota minore che l'altra della ruota maggiore. Però vi prego a dichiararmi come il negozio cammina. Simplicio, voi, signor Sagredo, questa volta vi siete dimostrato dissimile a voi medesimo, che solete in un momento penetrare tutte le cose, ed ora trapassate una fallacia posta nell'esperienza delle canne, la quale ho io potuto penetrare, e questa è la diversa maniera di operare nel far la proiezione, or con la canna breve ed or con la lunga, perché a voler che la pietra scappi fuor della cocca non bisogna continuar uniformemente il suo moto, ma allora che gli è velocissimo conviene ritenere il braccio e reprimer la velocità della canna, per lo che la pietra, che già è in moto velocissimo, scappa e con impeto si muove. Ma tal ritegno non si può far nella canna maggiore, la quale, per la sua lunghezza e flessibilità, non ubbidisce interamente al freno del braccio, ma, continuando di accompagnare il sasso per qualche spazio, col dolcemente frenarlo se lo ritien congiunto e non come se in un duro intoppo avesse urtato da sé, lo lascia fuggire. Che quando amendue le canne urtassero in un ritegno che le fermasse, io credo che la pietra parimente scapperebbe dall'una e dall'altra, ancorché i movimenti loro fossero egualmente veloci. Sagredo. Con licenza del signor Salviati, risponderò io alcuna cosa al signor Simplicio, poiché egli a me si è rivoltato, e dico che nel suo discorso vi è del buono e del cattivo. Buono perché quasi tutto è vero, cattivo perché non fa in tutto al proposito nostro. Verissimo è che quando quello che con velocità porta le pietre urtasse in un ritegno immobile, esse con impeto scorrerebbero innanzi, seguendone quell'effetto che tutto il giorno si vede accadere in una barca che, scorrendo velocemente, areni o urti in qualche ostacolo, che tutti quelli che vi son dentro, colti all'improvviso, repentinamente traboccano e cascano verso dove correva il naviglio. E quando il globo terrestre incontrasse un intoppo tale che del tutto resistesse alla sua vertigine e la fermasse, allora sì che io credo che non solamente le fiere, gli edifici e le città, ma le montagne, i laghi e i mari si sovvertirebbero, eppur che il globo stesso non si dissipasse. Ma niente di questo fa al proposito nostro, che parliamo di quel che possa seguire al moto della terra girata uniformemente e placidamente in se stessa, ancorché con velocità grande. Quello parimente che voi dite delle canne è in parte vero, ma non fu portato dal signor Salviati come cosa che puntualmente si assesti alla materia di cui trattiamo, ma solamente come un esempio che così, alla grossa, possa destarci la mente a più accuratamente considerare se, crescendosi la velocità in qualsivoglia modo, con la stessa proporzione si accresca la causa della proiezione. Sicché, verbi grazia, se una ruota di 10 braccia di diametro, muovendosi in maniera che un punto della sua circonferenza passasse in un minuto d'ora 100 braccia e perciò avesse impeto di scagliare una pietra, tale impeto si accresce 100.000 volte in una ruota che avesse 1.000.000 di braccia di diametro, il che nega il signor Salviati, ed io inclino a crederli stesso, ma non ne sapendo la ragione, l'ho da esso richiesta e con desiderio la sto attendendo. Salviati. Eccomi per darvi quella soddisfazione che dalle mie forze mi sarà conceduta. E benché nel mio primo parlare vi sia per parer ch'io vadia ricercando cose aliene dal proposito nostro, tuttavia credo che nel progresso del ragionamento troveremo che pur non saranno tali. Però dicami il signor Sagredo in quali cose egli ha osservato consister la resistenza di alcun mobile all'esser mosso. Sagredo. Io per adesso non veggo esser nel mobile resistenza interna all'esser mosso, se non la sua naturale inclinazione e propensione al moto contrario, come nei corpi gravi che hanno propensione al moto in giù, la resistenza è al moto in su, ed ho detto resistenza interna, perché di questa credo che voi intendiate, e non delle esterne, che sono accidentali e molte. Salviati, così ho voluto dire, e la vostra perspicacità ha prevalso al mio avvedimento. Ma s'io sono stato scarso nell'interrogare, dubito che il signor Sagredo non abbia con la risposta adeguata a pieno la domanda, e che nel mobile, oltre alla naturale inclinazione al termine contrario, sia un'altra, pure intrinseca e naturale qualità che lo faccia renitente al moto. Però, ditemi di nuovo, non credete voi che l'inclinazione, verbi grazia, dei gravi di muoversi in giù sia uguale alla resistenza dei medesimi all'essere spinti in su? Sagredo, credo che ella sia tale per l'appunto, e per questo veggo nella bilancia due pesi uguali restar fermi nell'equilibrio, resistendo la gravità dell'uno all'essere alzato alla gravità con la quale l'altro, premendo in giù, alzar lo vorrebbe. Salviati, benissimo. Sicché, a voler che l'uno alzasse l'altro, bisognerebbe accrescer peso al premente o scemarlo all'altro. Ma se nella sola gravità consiste la resistenza al moto in su, onde avviene che nella bilancia di braccia diseguali, cioè nella stadera, talvolta un peso di 100 libbre col suo gravare in giù non è bastante a alzarne uno di 4 libbre che gli contrasterà. E potrà questo di 4 abbassandosi alzare quello di 100, che tale è l'effetto del romano verso il grave peso che noi vogliamo pesare? Se la resistenza all'essere mosso risiede nella sola gravità, come può il romano, col suo peso di 4 libbre sole, resistere al peso di una balla di lana o di seta che sarà 800 o 1000? Anzi, pure potrà egli vincere col suo momento la balla e sollevarla? Bisogna pur, signor Sagredo, dire che qui si lavori con altra resistenza e con altra forza che con quella della semplice gravità. Sagredo, è necessario che sia così, però ditemi, qual è questa seconda virtù? Salviati, è quello che non era nella bilancia di braccia uguali. Considerate qual novità è nella stadera, ed in questa di necessità consiste la causa del nuovo effetto. Sagredo, credo che il vostro tentare mi abbia fatto sovvenir non so che. In amendue gli strumenti si lavora col peso e col moto. Nella bilancia i movimenti sono uguali, e però l'un peso bisogna che superi l'altro in gravità per muoverlo. Nella stadera il peso minore non muoverà il maggiore, se non quando questo si muova poco, essendo appeso nella minor distanza, e quello si muova molto, pendendo da distanza maggiore. Bisogna dunque dire che il minor peso superi la resistenza del maggiore col muoversi molto, mentre l'altro si muova poco. Salviati, che tanto è quanto dire che la velocità del mobile meno grave compensa la gravità del mobile più grave e meno veloce. Sagredo, ma credete voi che la velocità ristori per l'appunto la gravità? Cioè, che tanto sia il momento e la forza di un mobile, verbi grazia, di 4 libbre di peso, quanto quella di un di 100, qualunque volta quella avesse 100 gradi di velocità e questo 4 gradi solamente? Fine della giornata seconda, parte 14, registrazione di Pierre.